Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ormai è fatta, di Horst Fantazzini, parte undicesima. A Sulmona trovai dei bravi compagni, si discuteva, si passava del buon tempo, si fa per dire. Insieme si cercava di migliorare la situazione interna del carcere, vitto, installazioni del telefono, porte aperte per un maggior numero di ore. Anche De Deo non aveva digerito questo tira e molla dei centri clinici e disse che m'avrebbe fatto visitare all'ospedale di Sulmona. Il primario del reparto chirurgico era un suo caro amico. Io ormai avevo recuperato le forze, l'equilibrio. L'unico disturbo che mi dava la pallottola alla testa, oltre alla sordità, erano i fischi e fruscii all'orecchio destro, che persistono tuttora. La mano destra non era a posto, ma poteva servire per tante cose. Pensai che non era il caso di continuare a farmi prendere in giro dai centri clinici e cominciai ad esaminare seriamente le possibilità d'evasione che Sulmona presentava. A prima vista Sulmona è un carcere molto sicuro, ma doveva esservi un punto debole e mi misi a cercarlo. Come in ogni altro carcere mi vennero fatte delle proposte, ma ero certo che fosse un sondaggio del direttore e risposi che per il momento avevo solo due desideri. Primo, essere operato e guarire. Secondo, essere trasferito da Sulmona. I detenuti dei quali potevo fidarmi, pochi, non avevano interesse ad evadere, quindi non gliene parlai neppure. Decisi che avrei fatto tutto da solo. Dato che non potevo dedicarmi ad acrobazie aeree, dovevo procurarmi un'arma per farmi aprire le porte giuste. Alle primi di aprile mi era già chiaro: un'ala del carcere all'ultimo piano è adibita ad uffici, matricola, direttore, assistente sociale, ragioniere, conti correnti. Questo lato del carcere confina con la facciata esterna del penitenziario, formando con essa una L che comprende due lati del carcere. Sulla facciata esterna vi è logicamente l'entrata che dà in portineria, che è divisa dal carcere da un secondo cancello. Dalla portineria si accede ai piani superiori della facciata esterna. Al primo piano vi è la caserma delle guardie, al secondo vi è l'appartamento del direttore e quello del maresciallo. Quest'ultimo, sull'angolo di congiunzione dei due lati, confina con gli uffici citati prima. Le finestre dell'appartamento del maresciallo sono senza inferriata e danno sulla strada. Accedere agli uffici non è difficile, basta chiedere di andare all'ufficio matricola e vi si è accompagnati da una guardia, però c'era il fatto che per passare dagli uffici all'appartamento del maresciallo bisogna passare attraverso due cancelli, i quali sono sempre chiusi. Chi aveva le chiavi di questi cancelli? Non potevo certo chiederlo ai detenuti che lavorano in quegli uffici. Dalle finestre dell'infermeria potevo osservare il cortile interno, le finestre della direzione, della caserma, degli appartamenti del direttore e del maresciallo, il portone interno alla portineria. Potevo vedere chiunque entrasse o uscisse dal carcere, a condizione che non passasse dalle scale che dalla portineria portano ai piani superiori. Il piano che mi interessava era alto, nella parte interna del carcere, oltre 10 metri, ma io avevo notato che all'esterno le finestre che mi interessavano erano molto più basse, perché la strada era in ripida salita. Per fare un esempio, la caserma delle guardie si trovava a un'altezza di circa 6 metri nella parte interna del carcere, mentre all'esterno era seminterrata. Dopo alcuni giorni ebbi la certezza che il personale civile che lavorava negli uffici, l'assistente sociale, il direttore e il maresciallo accedevano agli uffici senza passare all'interno del carcere. Dunque, quei due cancelli venivano quotidianamente usati. Mi feci un'idea di come poteva funzionare la cosa. Probabilmente chi doveva accedere agli uffici dall'esterno veniva accompagnato da uno dei due portinai, su per le scale. Passavano attraverso il corridoio che costeggia l'appartamento del maresciallo e giungevano al primo cancello che veniva aperto dal portinaio. Questi apriva il cancello, lasciava passare le persone e lo richiudeva. Tra i due cancelli c'era probabilmente un campanello che la persona interessata ad entrare suonava per chiamare l'appuntato che in direzione ha funzioni di portinaio e discensore della corrispondenza dei detenuti. Questi apriva il secondo cancello e lo richiudeva. Per uscire il movimento era uguale, ma in senso inverso. Dunque, avrei dovuto agire così, andare con una scusa in matricola, sequestrare un impiegato civile e la guardia che mi avrebbe accompagnato, obbligare l'appuntato censore portinaio ad aprirmi il primo cancello, rinchiuderlo, quando tutti e tre ci saremmo trovati tra i due cancelli, suonare il campanello, chiamare il portinaio in basso, mettermi con le guardie in un angolo morto dove il sopraggiungente portinaio non ci avrebbe visti. L'impiegato sarebbe stato davanti al secondo cancello, come se volesse uscire. Quando il portinaio avrebbe aperto il cancello, lo avrei minacciato. Sarei uscito richiudendo anche il secondo cancello, lasciando le quattro persone chiuse tra i due cancelli. Entrare nell'appartamento del maresciallo sarebbe stato facile. Avrei poi scelto l'ultima finestra perché più bassa, dato che la strada è in salita. Fuori ci sarebbero stati due amici. Quando mi avrebbero visto alla finestra, uno dei due si sarebbe dovuto avvicinare con noncuranza verso l'entrata del carcere, dove c'è una garitta con un agente armato di mitra. L'avrebbe disarmato mentre io sarei sceso dalla finestra e poi ce ne saremmo andati tutti con la macchina guidata dal terzo amico. Era rischioso, ma possibile. Non si sarebbero mai immaginata una cosa simile e sarebbero stati presi completamente alla sprovvista. E se per qualche imprevisto non ce l'avessi fatta ad uscire e fossi rimasto bloccato negli uffici, avrei fatto come a Fossano, prendendo tutti in ostaggio e mettendo a frutto l'esperienza che in quell'occasione mi feci sulla mia pelle. Al primo movimento sospetto, gli amici se ne sarebbero dovuti andare. Per aspettarmi in un punto prestabilito per il cambio di macchina, nel caso ce l'avessi fatta, ad uscire con un paio d'ostaci. Tutto questo può sembrare cinico, ma io la considero legittima difesa, condannato a 30 anni senza aver mai fatto uso in libertà d'un'arma da fuoco, esaurite tutte le possibilità legali concesse dagli attuali codici per ridimensionare una condanna che rappresenta la morte civile. Io mi prendo il diritto d'usare i mezzi che ritengo idonei per sottrarmi a una condanna profondamente ingiusta. Sapevo già come fare entrare nel carcere le armi e quanto mi serviva. Non posso dare i particolari, anche se mi piacerebbe farlo, perché sono certo che molti si strapperebbero i capelli dalla rabbia, imparando che sono stati loro stessi, naturalmente a loro insaputa, a portarmi tutto all'interno del carcere. Scelsi la data del 26 aprile, è il giorno che nell'ufficio del ragioniere capo ci sono i soldi che servono per le paghe dei funzionari civili e militari, non solo della casa penale, ma anche del carcere giudiziario di Sulmona. Con il fondo cassa corrente, il 26 ci sono circa 70 milioni nella cassaforte. Le paghe vengono consegnate il 27. Dato che dovevo sequestrare un funzionario civile, perché non scegliere il ragioniere capo? Lui ha le chiavi della cassaforte. Evadere con tutti i soldi del carcere sarebbe stata una bella rivincita 9 mesi dopo i fatti di Fossano. Prima della metà d'aprile, un ignaro sbirro portò all'interno del carcere il mio corredo per l'evasione. Non ebbi problemi per impossessarmi del mio sacchetto ed ero piuttosto emozionato quando, chiuso nel gabinetto, ne controllai il contenuto. Una rivoltella Smith & Wesson calibro 38 carica e con 30 colpi di riserva, un coltello a scatto, una patente e una carta d'identità, un po' di soldi e una lettera. Per I miei amici facevano sapere che non era possibile per il 26 aprile, proponendo il 26 maggio. Comunque andava bene qualsiasi data, dopo il 5 maggio. Dovevo solo farglielo sapere con alcuni giorni d'anticipo. Nel caso ci fosse stato qualche intoppo e un nuovo rinvio, mi avrebbero avvisato con un telegramma convenzionale. Se andava bene il 26 maggio non era necessario rispondessi, però mi chiedevano di mettere un segnale in una certa finestra visibile da lontano, un asciugamano rosso steso ad asciugare. Se il giorno stabilito non avessi potuto rispettare il piano, avrei dovuto togliere l'asciugamano mezz'ora prima dell'ora stabilita per l'evasione. Mi dicevano anche di lasciare perdere i soldi della cassaforte, se questo mi avesse complicato ancora più il mio compito. Tutto era completamente anonimo. Se malauguratamente il sacchetto fosse stato scoperto prima che io avessi avuto modo di impadronirmene, non avrebbero potuto sapere da dove veniva, né provare a chi era diretto, anche se avrebbero sicuramente pensato a me. Trovai un posto sicuro per nascondere il mio tesoro. Ormai ero talmente preparato per il 26 aprile e mi dispiaceva dover attendere un altro mese in più, ma pazienza. L'importante era che i miei amici avevano cominciato a muoversi e dimostravano di avere una visione esatta di quanto mi aspettavo da loro. Temevo che l'insuccesso di Fossano li avesse impauriti. Dedeo mi disse che il ministero aveva rifiutato il permesso a farmi visitare ugualmente. Avrebbe convinto il suo amico chirurgo a venire a visitarmi in carcere. Ve l'avrebbe portato lui stesso. Trascorsi le feste di Pasqua con Anna e i nostri figli. Anna era felice perché ogni volta mi trovava in migliori condizioni fisiche. Mi sentivo un po' in colpa. Tra breve le avrei procurato un sacco di preoccupazioni e non potevo dirle niente. Non è mancanza di fiducia, ma lei deve restare lontana da queste cose. Deve occuparsi dei nostri ragazzi e questo è un problema sufficientemente gravoso per lei che non ha neppure il supporto di una buona condizione fisica. Che cosa succederebbe se la arrestassero? Che cosa ne sarebbe di Loris e Luigino? A molti un'eventualità del genere piacerebbe, ne è la riprova la diffidenza con la quale è accolta in ogni carcere quando viene a visitarmi, l'umiliazione di minuziose perquisizioni cui viene sottoposta e dalle quali non viene risparmiato neppure Luigino, che è alto come due soldi di cacio, le lunghe attese in portineria mentre gli altri visitatori vengono lasciati entrare subito. Si sa, se io sono un delinquente, deve esserlo necessariamente anche la mia compagna ed anche i miei figli, debbono avere sicuramente qualche cromosoma inquinato. Quante piccole meschinità hanno impiegate per esasperarla, lettere trattenute, colloqui di mezz'ora nell'ufficio dei brigadieri, mentre gli altri detenuti potevano stare 4 ore nella sala colloqui. Quando ricevevo una lettera da un'amica me la portavano al colloquio con la speranza di provocare una lite e tante altre meschinità di questo genere. Anna è una donna timida e fisicamente debole, è invalida civile, quasi sorda, ha gravi disturbi agli occhi, in quanto è stata operata 2 volte per distacco della retina, ma dentro di lei c'è qualcosa che non si spezza, che non riescono a spezzare. Alle umiliazioni e al resto ha saputo reagire con coraggio e dignità ed al posto di crollare ha cominciato a maturare in lei una coscienza politica che c'era forse anche prima, ma dormiva. Sono proprio le ingiustizie toccate con mano in questi anni che al posto di spaventarla le hanno dato un coraggio nuovo. È però rimasta la mia Anna di sempre, timida, dolce, tenera, paziente. Non c'è odio in lei, ma una profonda e sofferta sete di giustizia. Non solo per lei, per i nostri figli, per me, ma per tutti. Dedeo mi disse che sarei stato visitato dal suo amico chirurgo il 10 maggio. Per via confidenziale appresi che era stato deciso il mio trasferimento. Non seppi dove, ma si attendeva appunto che avesse luogo la visita del 10 maggio per poi trasferirmi. Era un guaio. Non potevo certo portare con me la pistola durante il trasferimento e non volevo certo buttare all'aria tutto. Sarebbero stati mesi e mesi di tempo perso. Provai a mettere al corrente gli amici su questo cambiamento, informandoli sulla necessità di anticipare tutto al 9 maggio. In quei giorni mi era giunto un avviso per un processo d'appello, quindi gli feci sapere che se fossero stati d'accordo per il 9 maggio dovevano mandarmi un telegramma con questo tenore: disposta a difenderla, faccia subito mia nomina, avvocato X. Un telegramma del genere non avrebbe insospettito la censura. Se non avessi ricevuto il telegramma per la sera dell'8, voleva dire che tutto era andato all'aria, almeno per ciò che concerneva la possibilità di evadere a Sulmona. Alcuni giorni dopo ebbi un colpo di fortuna inatteso. Ero stato chiamato in direzione per il ritiro di una raccomandata. Mentre l'appuntato censore portinaio leggeva la mia raccomandata, venne il ragioniere e gli disse che doveva uscire. Da un cassetto l'appuntato prese un mazzo di chiavi, mi lasciò in consegna all'agente che mi aveva accompagnato e si diresse con il ragioniere verso il famoso cancello in fondo al corridoio. Aperto il primo cancello, uscì con il ragioniere e dopo qualche secondo udì il rumore di un altro cancello che veniva aperto e subito richiuso. Quindi l'appuntato ricomparve, chiuse anche il primo cancello e ritornò presso di noi. Dunque aveva le chiavi di entrambi i cancelli. Tutto era così molto più semplice nel caso in cui avessi dovuto vedermela solo con l'appuntato e l'agente di scorta, non ci sarebbe stato bisogno di andare a sequestrare uno dei civili che lavoravano in direzione. Era ormai il 5 maggio ed ero triste perché sentivo che un'occasione d'oro stava sfuggendomi tra le dita. Da quando avevo cominciato ad intravedere una concreta possibilità di evasione, frequentavo il meno possibile i compagni. Non volevo che dopo i fatti avessero noie per causa mia. Dato che non sono ragazzi stupidi, avevano capito qualcosa, ma non mi facevano domande, aspettavano che fossi io a dire loro qualcosa. E dato che non lo facevo, compresi che si erano un po' offesi, interpretando il mio comportamento come mancanza di fiducia nei loro confronti. Questo mio modo d'agire fa parte di una regola che ho sempre seguito e che continuerò a seguire anche se può venire interpretata male. Questo non vuol dire che io debba fare sempre tutto da solo, ma non vedo la necessità di mettere al corrente persone che non prendono parte all'azione, correndo il rischio di danneggiare chi invece vi prende parte, ad esempio coloro che mi aiutano dall'esterno. Con questo non voglio dire d'essere più furbo di altri, la mia esistenza infatti è costellata di imprudenze che rasentano l'incoscienza, ma sino a quando per le mie imprudenze pagherò da solo, senza coinvolgere altri, resto unico giudice di me stesso. Del resto, le mie condanne esageratamente pesanti si spiegano in parte nel fatto che in tutti i miei processi ho sempre seduto in solitudine sul banco degli imputati. Il giorno 7 a mezzogiorno ricevetti il tanto sospirato telegramma. Ne fui felice, come se avessi appreso che Pinochet o Franco erano schiattati. Anzi, ad essere onesti, ne fui felice ancora di più. Misi ordine tra le mie cose, escluse quelle di Anna. Strappai tutte le mie lettere per evitare inutili interrogatori o controlli ai miei corrispondenti, amici e compagni, all'oscuro di tutto, ma che avrebbero sicuramente gioito con me nell'apprendere che finalmente ce l'avevo fatta. La sera dell'8, prima di addormentarmi, pensai lungamente a tutto ciò che mi aspettava il giorno dopo. Ero fiducioso, convinto che tutto sarebbe andato bene. L'indomani mattina alle 11:30 sarei stato libero, oppure, beh, meglio non pensare agli oppure. Da questo punto in poi, dal momento che non siamo più riusciti a ricevere i suoi scritti, ricostruiamo il finale della storia di Horst Fantazzini con articoli di giornale e lo stralcio di una lettera da lui inviata ad un compagno medico di Firenze, sottoscrittore del Soccorso Rosso. Articolo tratto da Il Giorno, 10 maggio 1974. drammatiche ore nel carcere di Sulmona, L'Aquila. Evade, ma poi si arrende Fantazzini, bandito scintille. Ha tentato un'altra volta il colpo, caduto da 5 metri si è fratturato i piedi. Non è andato lontano. A Fossano, in luglio, ferì 3 agenti, prese 2 ostaggi e cercò di fuggire coprendosi con loro. Non ma poté essere catturato gravemente ferito. Dal nostro inviato Graziano Serchielli, Sulmona, 9 maggio. Per 6 ore ha tenuto una città con il fiato sospeso, barricato in una canonica di periferia, disabitata, almeno in quel momento. Il parroco era andato a dire messa in un paese vicino e così Horst Fantazzini ha concluso lì, tra vecchi quadri, un bel coro, un'abside romanica, poche vecchie sedie spagliate, la sua ultima avventura. Questa volta però, invece della solita pistola giocattolo delle sue rapine compiute quasi tutte al nord, negli anni 60 aveva una vera beretta e 20 proiettili. Come gli sia arrivata quella pistola nel carcere di Sulmona, considerato uno dei più sicuri d'Italia, nessuno ancora è riuscito a spiegarlo. Eppure Horst Fantazzini questa mattina ha puntato sul viso del secondino la pistola. Ora mi apri il cancello, ha detto. Deciso. Il secondino ha aperto e Horst ha guadagnato la libertà scavalcando un muro alto 5 metri. Un altro agente l'ha visto fuggire, ma non ha sparato, per paura di colpire alcuni cittadini che si trovavano lì. Conosciuto come il bandito gentile e anche il rapinatore solitario, Horst si è buttato di corsa per il paese. Alcuni cittadini l'hanno visto con i capelli sulla faccia, la pistola in pugno, correre verso la periferia. In carcere, intanto, già iniziava l'inseguimento, mentre i carabinieri cercavano di bloccare le strade che portano fuori dalla città. Horst Fantazzini ha però perso quasi subito il fiato, forse anche perché si era ferito ai calcagni. L'ho visto appoggiato a un albero mentre si guardava intorno, ha detto una donna. Probabilmente non sapeva dove andare. Come ultimo rifugio si è scelto una chiesa, ha tirato un calcio a una vecchia porta ed è entrato senza difficoltà. 5 minuti dopo era circondato. Il dialogo tra le forze di polizia e il rapinatore, che deve scontare ancora 20 anni di carcere, non è stato troppo lungo. Butta la pistola e vieni fuori con le mani in alto. Dall'interno della canonica solo silenzio. L'invito ad arrendersi questa volta da parte del direttore del carcere ha finalmente trovato risposta. Voglio un lasciapassare e la garanzia di potermi allontanare dalla zona. Questa la richiesta del fuggitivo. Saggiamente non si è voluto ricorrere alla maniera forte, giudicata pericolosa dal procuratore della Repubblica di Sulmona, Elio Stella. È stato proprio il magistrato a mettersi in contatto con l'avvocato di Fantazzini, Mario Giulio Leone. A questo punto il bandito ha cambiato tattica. Niente più salvacondotto e garanzia di fuga, ma la promessa di venire adeguatamente curato. Dopo che il medico del carcere, De Meo, gli aveva garantito che le pratiche per un intervento chirurgico al quale Fantazzini dovrebbe essere sottoposto saranno accelerate al massimo e dopo aver ricevuto un messaggio del padre, non fare pazzie, arrenditi, ti cureremo presto e bene. Fantazzini è uscito dalla canonica, in una mano teneva la pistola e nell'altra un grosso coltello a serramanico. Li ha buttati lontano. Ora lo stanno interrogando per sapere da che parte gli è arrivata la pistola. È escluso, secondo una dichiarazione del direttore del carcere, che sia riuscito a strapparla a una guardia. Horst Fantazzini ha appena compiuto 35 anni e venne a suo tempo condannato per una lunga serie di rapine che condusse a termine senza mai sparare un colpo, armato sempre di una pistola giocattolo. Ma l'anno scorso, appreso che il suo ultimo ricorso era stato respinto, si procurò nel carcere di Fossano una pistola, un'arma vera stavolta, ferì 3 agenti, si barricò con 2 ostaggi, pretese una giulia per fuggire, intavolò estenuanti trattative. Mentre i più abili tiratori dei distaccamenti piemontesi dell'arma si appostavano in un angusto cortile nell'attesa del momento cruciale. Si finse di cedere alle richieste, si portò una giulia in quel cortile. Quando Fantazzini comparve coprendosi con gli ostaggi, un cane addestrato gli fu lanciato addosso, lo distrasse quell'attimo necessario ai tiratori per sparare tutti insieme. Vollero sparare tutti, ma il bandito, pur crivellato di colpi, riuscì a sopravvivere e anche oggi gli è andata bene, infine. Casa Penale di Lecce, 7 aprile 1975. In maggio, il 9, esasperato, tentai l'evasione da Sulmona e mi fratturai il perone della gamba sinistra ed il tallone di quella destra. Fui rinviato al centro clinico di Perugia e questa volta le gambe si sono aggiustate bene. All'ortopedico chiesi di operarmi al braccio, ma mi disse che la dispersione di calcio per aggiustare le fratture alle gambe sconsigliava per il momento un intervento al braccio. Insistei di nuovo con il professor Zeppa per essere operato all'addome, ma non ci fu niente da fare. In luglio ero a Volterra. Tramite il tuo interessamento, a novembre fui visitato dal professor Bettini. C'era anche il professor Modigliani, che è ispettore medico per gli stabilimenti penitenziari. Entrambi dissero che l'operazione era possibilissima. Diagnosticarono che, se non vado errato, una mediastasi, che dovrebbe essere una cosa più semplice di un laparoscele. Il professor Modigliani mi prescrisse anche un esame cocleo-vestibolare. Entrambi dissero che sarei stato visitato di nuovo tra 3 mesi e che nel frattempo avrei dovuto smettere di fumare e rafforzarmi un po'. Mi fu promesso da parte del professor Modigliani la possibilità di essere operato in primavera del 1975, in un luogo maggiormente attrezzato di un centro clinico carcerario, a condizione che ci fosse stata dimostrazione di buon comportamento da parte mia. A parte il fatto che mi è incomprensibile che le prestazioni mediche di un detenuto debbano essere subordinate al suo buon comportamento, si vede che il generale Miceli si è comportato bene a priori, dato che dal suo arresto non ha ancora messo piede fuori dall'ospedale militare. Ero contento di questa promessa ed attendevo la nuova visita per 3 mesi dopo. Dopo 3 mesi, però, mi sono ritrovato qui a Lecce. Ora, caro compagno, la situazione è questa. Se tramite il medico di questo carcere viene richiesto un mio ricovero in un centro clinico, il ministero risponderà negativamente, basandosi sul parere negativo del dottor Zeppa di Perugia. Dato che la visita del professor Bettini è stata una visita privata, non ne risultano tracce nella mia cartella clinica ufficiale. Tutto si potrebbe risolvere con l'intervento del professor Modigliani, ispettore sanitario del Ministero. So che abita a Firenze, ma non saprei dove rintracciarlo con una mia lettera. Ho pensato che tu, tramite il professor Bettini, potresti rintracciarlo. Forse sarebbe utile che un mio familiare potesse parlare con lui. Mia moglie, che abita in provincia di Latina, tra 2 settimane dovrebbe passare da Firenze con mio figlio maggiore, Loris, 15 anni, secondo liceo scientifico, futuro medico-chirurgo. Libri ribelli. Libri ribelli.